200 euro, Vai, vai. No, vedi tu, io cambio 22 euro, ricordo. Oh, ieri ne hai messo 21 e 136, cosa stai a dire? Ma me la sto per coglione, già prende più lo che vuole vedere. Non si piace, fai, no, il problema è che forse non si sta chiedendo, perché da passata la chiesa prima, da sua, ma no, si fa 30 euro in più. Sì, ma la carriera a pagarmi 2000, la rifai per 50 euro. Vedi, hai aperto la blu? C'è qualcuno? Superstar 3009 Colt 300 euro di radio dentro l'armadio buttato. Sì, vabbè. Però così. Mi sta riclamato un po' la base, quelli modificati con tutti i disegni e cose. Quelli che costavano 400 euro, sai quanto costavano 490 euro. No, non c'è più mercato. 190 euro rimane lì. Il mio non ne ha disegni. Non te ne accorgi neanche che è modificato. È quello che c'era Massimiliano, ne aveva troppi, uno glielo ho comprato io. Vabbè, dentro l'armadio, non mi piace mettere baracchini qua, già, no, ma c'è la radio baracchini, sono tutti HF, avere questi baracchini messi ai piedi, l'unico baracchino che c'ho è il DAC, ma non tanto di presenza, capito? Beh, baracchini, dove li metto? Sopra gli HF, no, tu... E appunto, quello grande che c'hai, il baracchino? Io so, non ho problemi. Cos'è che c'è Valerio? Cosa c'è? Cosa c'è? E quando provi qua già lo sai che anche se provi io ti sento abbastanza forte, ok? Che Gianni comunque. L'estate ho già, se capita lo attacco, sposto un HF, lo attacco e vado un po' a divertirmi 45 metri, capito? Ma è una bomba quella razza, bellissima, tutta blu, display, cose dei canali, tutto blu, bellissima, e se no non pompa, c'ha 35 watt, infatti per usarla con l'amplificatore piccolo dovevo mettere a 2 watt e mezzo, se no me lo crepa, avanti già, riprendi. Ehi, ciao Marino, qua un momento ti ha portato da queste parti, ho detto qua un momento ti ha portato da queste parti, ero un po' che non ti sentivo. Ma provare malissimo sì. Ah, e io ti ho pensato che Valerio si è trovato qualche pischella e se ne frega di noi. Beh, sei no, Felicio, attaccato alle 9.10, quindi non è che non ti posso sentire. Va bene, va bene. Vai, esce Gianni, così è. Ma a chi c'ha posto, a chi c'ha altre cose, io ma a chi no. Non è buono che non cammettano. Comunque, a me mi si è imbarazzata anche la macchina, boh, da stazionare, non scaccava nemmeno. Ho provato a controllare cose PR, gli ho messo spray, cervicino dove c'è il contatto, niente, usava, sempre stazionare. Boh, non capisco cosa è successo, ma ho provato la rossino della... E cosa sarà? È che adesso, adesso provo a cambiare lo stile, tutta la prestazione è uguale. Mi cambio lo stile, è vero, se quello era dopo 2000 euro mi dava 1 euro in tutti i canali, proprio c'è, ma hai dato problemi di stazionare con lo stile. Ed è nuova la grana, nuova di zecca, tutta la busta quando l'ho piazzata, quindi ce l'avevo la stanza, però non l'avevo mai aperto. Ma quale, quella corta che hai messo? No, ho messo la PDC 10 a 200, no, questo dell'anno 2001, come sarà fatto? Controlla. È già sei capace, ti apri per vedere un po' cosa c'è avanti, vale. E questa qui l'ho cambiata a poco, non sarà manco, cosa sarà quando l'ho cambiata, non sarà un paio di mesi. Io l'ho cambiata, siamo a gennaio, cosa l'hai cambiata? Un paio di mesi, novembre. E fa, non era tanto che l'ho cambiata, non va. No, avevo la 2001, siccome mi ha sbarrato il tetto della macchina, il tetto l'ho aggiustato e l'ho messo davanti la PDC 800, perché quella era troppo pesante e si rompe la cappotta, capito? E l'ho provata in tutte le masse. Cosa stavo dicendo? L'ho provata col cappetto, gli ho messo il cappetto attaccata alla base dell'antenna e poi attaccata alla cappotta. Ho provato a fare massa, ma non c'è nessun problema, quello non è. Poi ho provato la massa al piede, niente. E l'unica cosa, poi ho provato a allungarla e ammassarla e alzarla, e così lo posso fare. L'unica cosa da fare è provare se dipende dalla base o se dipende dallo stilo, perché dopo che ha fatto quella pioggia sporca eccetera eccetera, io l'ho tutto pulito lo stilo per tenerci anche quel problema lì, l'ho trovato in piazza dei segni e non va. Adesso provo a cambiare lo stilo, ho avuto l'idea, cambio lo stilo e vedo un po' se è dalla base oppure dalla testa. E che adesso se andava bene fino a 2 giorni fa, poi ho provato che a fare chiamata che si accende il balardi, sembrava che me lo sentisse, ho detto di mattina non c'è mai nessuno, tutto è pronto. Ho provato, niente da fare. E infatti provo a cambiare lo stilo, prima lo vediamo. Se è lo stilo, allora metto mano nello stilo, vediamo un pochettino cosa può essere. Mi porto l'accordatore, e rompo l'accordatore, vediamo un po' cosa può essere. Sì. Sì, più di una ne ho messa apposta. Tanta finita sta facendo il pisolino, perché poi di notte deve uscire. Me stava parlando. Oh, Natalino, ci sei? Natalino? Chi è che chiama? Buonasera, vedi che ti sta chiamando anche Valerio, dai. Vabbè, sto cercando maschera SD che ho perso del telefono. Non posso stare qua, dai. Vi ascolto. Va bene Natalino, fai fretta a trovarla, vieni qua. Natalino, cos'è che sta cercando? Sto cercando la scheda SIM del telefono. La scheda SIM del telefono? A chi pensa? Che ore sono? Cosa già? Ho detto che ore ci sono a parte? 7:05. Ah, è un bel tardi, ci facciamo presto, scusa. Pensavo più presto, comunque non c'è nessuno che siamo qua. Ia, perché sei saturo? Perché ho portato la massima della parità. Perché? Per farmi sentire la cosa da Valerio, perché per 2 volte ha detto cosa, pensavo non mi sentisse. Vai, tacca, Rosa, cosa non ti sente? Già va bene, ho voglia. Insomma, adesso c'è anche Stefano, questa... Quando volete, organizzate voi, io anche stamattina ero con Stefano. Volevo andare a prenderci caffè, invece poi si è fatto tardi, non ci siamo andati, però siamo rimasti giù un pochino parlando. Quando volete. Io sono qua, non capisco se sia l'influenza, non ho voglia di mangiare, nausea, mi sento strano, sto bussolando, bussurato, come si dice, mi sa sarebbe. Ehi, sarà un po' di influenza. E chi lo sa? Non è andato con scusa, a farmi stare bene un giorno. Allora, cosa si dice adesso? No, con ghiaccio. Sì, sono lì. E siamo per 20, già va bene. L'altra volta però qualcosa c'era, già, perché eri leggermente da me più basso, ma leggermente, leggermente, adesso ti ho segnato. Ma ho intassato il piede, io non capisco come faccio il piede a svitarsi da su. Cioè, ho capitato in bene e si svitava da su, non è dire che mi tocca qualcuno, ma ho provato, guarda, tutti in piede c'era qualcuno che era svitato. Già può capitare. Magari come sposti il mobile, capito? Tiri, non lo so. Adesso sei tu, 9:20 Piero, infatti me ne sono accorto perché eri 25. Quando attacchi sei 25, capito? Adesso se entra Giulio vedrai che ti dà il segnale giusto. Evidentemente erano i PL allora, era colpa tua. No, ma non penso, perché toccavano lo stesso, fra, se era quello là, diciamo, a toccare toccavano lo stesso, anche se sono un po' svizzato, non mi fa nulla. Ma non lo so, comunque gira, cambia anche l'antenna, magari quella lì ho la meno ricezione, che ne so, non lo so come sia. Ho la messa in un punto magari che mi dice più o meno perché ce l'ha interrata, non sul tetto. Prima lui mi diceva l'antenna, non la ferrata. Ma guarda che non è bassa, io l'ho vista la terra di Giulio, non è bassa, no? Certo non è all'altezza di quella là, ma è sempre sul tetto, non l'ha tirata su, ma è sempre lì, capito? Quindi è abbastanza alta, non è che ha cambiato molto qua Giulio il segnale, sembra che sempre un attesi a me. Perché con questo che ha fatto che si sento bene? Era preso qualche decibel, ma non è che abbia perso tanto, perché c'ha sempre un buon segnale qua, è oltre 9:15, quindi non ricordo se era 9:20 pieno, ma 9:20 arriva quando attacca quello grande, capito? Con i baracchini è sempre 9:15. No, ma tanto io l'ultimo centrale ce l'ho ancora, ci sono ancora radiali, se mancano due, o mi decido a mettere gli altri due, oppure riesco a cadere gli altri e poi in modo l'ultimo centrale a poco. Lì già, d'estate, cerchiamo un'altra mantova nuova, si mette la mantova nuova, se non un piantone nuovo, piantone usato, si cerca, io ce l'avevo lavorato, non so se l'avevo attattino, capito, dove si rimettono i radiali sui. Radiali sui originali e se lo piglia in luce. Perché lo sai perché? Perché non è troppo attivato, ma c'è che sono l'avrete comprata. L'avrete comprata e non sei più caricata bene, no come la prima volta che non abbiamo messo misurate tra un quell'altro. Era così. E comunque quando puntare va di toccare un cazzo, come l'ho girata, l'è parata la comprata. Sì già, mi è entrata a me ed era vulcanizzata, c'era roba, da sopra dalla punta si era riempita l'acqua, si era rotto quel tappino, qualcosa che c'era di plastica, col caldo e freddo si è spaccato ed era tutta piena leva, ma ti parlo tanti e tanti anni fa, e l'avevo svuotata, l'ho ben asciugata e gli ho messo un tappo di sughero con silicone. E ancora così, capito? E ancora così, e funziona perfettamente. Già abbiamo montato la tua antenna, mi sembra un altro vulcanizzante, era meglio mettere la buccia alla ginara l'antenna. No, io dopo il seguito li ho messo dopo quel bagnetto che c'hai la punta, non ti c'era niente. L'ho tolto completamente, l'ho riempita di silicone, una tela di silicone nero, poi tutta la cosa ho messo il silicone e gli ho messo uno di quegli affari per pensare di uscire. E l'ho fatto il pirino, poi l'ho tutto fatto a silicone a poco, anche quello di pirino l'ho tutto silicone, quindi non entrava la regia a parte. No, io ho preso un tappo di sughero di una bottiglia, l'ho fatto a misura, poi tagliato col coltello proprio a linea dell'antenna e riempito tutto di silicone. A vedere in base a macchina, infatti mai più. Va bene. Ah, già si trova la mantova, già si trova, non ti preoccupare, già si trova. L'ho vista anche da poco una su internet. Residuo in magazzino, bisogna guardare. Io ho avuto trovato la mantova 1, io c'ho la mantova 1, non c'ho la mantova 5. Capito? L'avevo trovata sul sito, non mi ricordo, di antenne, stavo guardando la mantova 1, subito, l'ho cliccato, l'ho messa sui preferiti, poi sono andato a prendermi il numero di telefono. Ed era una ditta, non mi ricordo di dove, che comunque aveva dei residui di magazzino, me l'aveva mandata. L'avevo pagata neanche 100 euro, compresa di trasporto, capito? Era nuova la mia, già quanti anni ha? Da 5 anni, 6 anni, non so quanto ci sono qua, perché prima era via Pascoli. Mentre via Pascoli avevo la mantova 5, c'era tutta brasigata, l'avevo fatta tutta a pezzi. E io via. Sì, ma perché non si trova lì, chi c'è trovato? Perché tanto la tua non mi piace, sono picchiati per soldi, no? Non la prenderì. Ed è l'unica che stiamo prendendo adesso. Quella di Master, ho visto che effetto ha fatto a come si dice, il conduttore, come si chiama, non me lo ricordo, la tigre, la salottina, che mi si è spaccata. Non mi dà fiducia, costa un bel soldo e non mi dà fiducia, insomma non sai più cosa pigliare. Oh, non c'è che matte, non c'è niente, non tanto ci vuole, io non cambierò mai, non cambierò mai, questa ci vuole, basta, adesso questa estate, intanto sono all'altezza l'uomo, l'attacco, le cambio un altro vulcanizzante, le do una bella pulita, la revisionata, e poi la ripiazzo. Vabbè, a parte quello la pulisco bene tutta, anche dove ci sono i radiali, tutto, capito? Lì c'è il grasso di vasellina, sta a posto, la sistemo, ma è perfetto ciò. Vero, manco ci muove, va. Spero di stazionare, butto, manco ci muovi. Va bene, io prenderò. Che cosa, la mantova? Beh. E secondo me già la truffi, vedrai che già la truffi. Poi l'avevo cercata già la mantova, perché la volevo cambiare, l'altra volta che io l'ho pulita, l'ho tirata anche con Fabrizio. Stavo per comprare una nuova, non so quanto tempo, dai aspetta che la guardiamo. Abbiamo guardato, no, non ci già si può fare, quando la facciamo rinascere. L'abbiamo cambiata, tutta quella piazza dove si attacca il piede, che colui era tanto ruginoso, non si poteva vedere. Ruggi era tutto completamente ruginoso, l'abbiamo messo nuovo. L'abbiamo cambiato il filo interno, l'abbiamo messo più grosso per resistere meglio. Poi l'abbiamo tutta lucidata, insomma, veramente più chiaro l'ha fatto proprio il titolo che è lui che merita da quello che abbiamo fatto. Non ha dato una mano io, ma lui ha fatto, diciamo, la roba più grossa. E insomma, quella abbiamo piantata, era un po' pure uno di stazionare, cioè, pulita, lucida, sembrava nuova, le abbiamo tolte radiali, le abbiamo tolte radiali così, erano più vetrificati. Gli ho radiali della mantova turbo, nuovi, che si possono mettere anche in questa, però non gli metto in alluminio perché i curvi me la rompono, capito? Oh, il trattore, perché il palazzo è assicurato, che abbiamo fatto qui per raccolto un coso di un terrazzino e ha pagato l'assicurazione al palazzo. Ha fatto un graffio, ma un graffio è una marcatura come caduto radiale di punta. Ho visto già di bucare un goffo, no? C'è la parabola inizialmente, infatti da lì la rotonda l'ho messa più all'interno adesso, capito? E quindi è caduto proprio nella strada e non all'interno del coso, nella strada ho preso proprio una macchina che c'era vicino al marciapiede. E vabbè, cose che succedono. Valerio, si trova dietro Giuseppe, bisogna trovare un accordo, però non va bene così, Hai sentito quello che ha detto Giuseppe l'altro giorno? Non va bene così, dovete trovare un accordo. È che quando parli con lui devi parlare piano, senza eco, senza niente. Se siete attaccati, di come quando attacca Legnare Antonello, già c'è un segnale fortissimo, quando attacca diventa saturo, quindi non è che si può parlare tra di noi con potenze alte, massimo 10 watt. Io sono adesso a 20 watt di portante, ma siamo distanti, no? Non c'è problema. No, io ero poc'anzi a Sinto Gianni, sono entrato già alle 7:15, 7:30 stacco, e vado a portare al bambino a fare una passeggiata. Sei sdraiato lì sotto la TV, nel lettino, cattivo è diventato, vale, non è più piccolino, non ti fa entrare più a casa. Non posso più evitare nessuno, non c'è Cristo. Ti si attacca e musica, eh? Musica perché non volevo legare, guarda, sono disperato. Perché adesso c'è un po' di transito e stanno venendo a avere la casa e mia moglie ha dovuto dare degli appuntamenti la mattina che io sono fuori col cane, perché se sei col cane non ti fa entrare, non c'è niente da fare. Non ti fa entrare, abbaia, adesso quando è nel poggiolo sta sempre abbaiando, chiunque passa si mette dritto sulla ringhiera. Cosa vuoi ti dica? Non è più un bambinetto, oramai è adulto e dice qua a casa mia non voglio nessuno mettere piedi, hai capito? La questione è venuta il popolo, per la montagna. Poi ti giù la poco, la potete sentire a mai. Mario va che devo fare il gaggino, ora viene Mario e hanno Antonio, ma a volte viene sempre Mario giù da via Pasca, me lo portano loro, no, e lo conosce, sì, nell'ascensore lo segue, abbaiandolo, non c'è niente da fare, infatti quando ordino la bomba lo stesso, la metto in taglio e la devo tenere, sono in grande difficoltà, ho peggiorato tantissimo, fuori poi non ne parliamo, fuori è un disastro, ma non con le persone, con i cani è un disastro, neanche ieri ce l'abbiamo scappata con questo ragazzo, di nuovo, ogni volta, e mi ha visto, almeno cambia marciapiede, no, con questo fattore tedesco, enorme, grandissimo, Sant'Antonio, alto uno strappo, per poco un micitira, si è messo dritto, guarda. Anche i denti fuori ha tirato, il cazzato nero ha detto mamma mia gara, guarda che vai occhi. Ui, è un casino, vabbè, purtroppo i cani sono così, quando sono piccoli, quando sono grandi bisogna avere un po' più di attenzione, è che non c'è musaruola per questo cane, capito? Oppure c'è, ma è molto fastidiosa, oppure lui respira col naso, non voglio che faccia male al cane, però fatto cambiato il guinzaglio, adesso non c'ho più il guinzaglietto che avevo prima, non c'ho la catena, c'ho il guinzaglio a catena perché me l'ha già aspettato due volte, non voglio creare problemi, vale, capito? Quel rompiballe ti sei messo a casa. è tranquillo che sempre meno rompiballe di te, guarda, sempre. Vi assomigliate perché anche tu sei un molosso che russi, scorreggi e mangi come un porco e dormi come un porco. Zitto tu, poco umane. Buonasera a tutti, scusate l'eruzione, certo è una seccatura, mi viene, rischia di aggredire chi viene a casa, mamma mia, io non... Quello di Gianni non credo sia così, quello di Gianni ti annusa e boh, ma è più diplomatico quello di Gianni, è più vivibile, vero Gianni? Avete parlato in due. Perché sei così fastidio? Perché c'è la scatola di fiammiferi. Hai capito, ma sono le popolaie, quindi. Ehi, c'era che gli vede quella, quella cosa in spalla, boh. Per il resto il tuo cane è tranquillo. Vabbè, quando vedi altri cani incontri. Buonasera, buonasera a tutti, dai, ero in farmacia un attimino. Ci ho pigliato un caffè fuori, sono rientrato adesso. Grazie, hai fatto bene. Io guarda, dico una cosa, che stamattina a Fruzio, tornando da una poltrona, questa signora stava facendo sul marciapiede col cane, non l'ho visto. Mi ha dato una poltrona per poco mi perde il braccio, mi sono tagliato. Vabbè, però quello di, vedi, quello di Claudio è, anche in casa è molto, come si dice, quel termine, territoriale, non vuole toccare il territorio. No, ma anche giù nel giardino all'interno, fuori nel marciapiede no, però se le passi a fianco è un casino, ma qua dentro è un disastro, E lo vogliono tutti bene, perché vai a tutti, Filippo, cosa c'hai? Allora un po' ti si avvicina, lo tocchi, si tranquillizza, però devi chiamare per nome. Ma chi non lo conosce? Tu non stai dicendo nulla. E sempre come sente l'ascensore, si punta nella porta e non va andava. Quando se suona il campanello, quello ne parliamo. Si apre la porta, scende giù e ti scende in beccia. No, no, no. È cattivo diventato, non so perché, non so, mentre quando invece va alle mostre o è con il mio genero è un tranquillone, con noi è così, forse perché sta molto dentro casa, capito, io non lo porto mai in giro a fare vedere le altre cose, lui conosce questo posto, il suo territorio e non vuole che nessuno glielo tocchi. Ehi, ehi. Bene, ma non so cosa dire, ho acceso e boh. Oggi ci ha piazzato la carabiniera, è venuta, ci ha piazzato lo scaldabagno per la cucina, che l'altro era rotto, bucato, da secoli. Tutto lei ha fatto, tutta la parte elettrica, la... E quindi ci abbiamo finalmente di nuovo l'acqua calda in cucina, dai. Il vecchio scaldabagno lo dobbiamo buttare che è tutto fradicio. Poi con la scusa si è trattenuta, da luna che è venuta si è andata alle 4:30 passate. Oh, io ogni volta siamo in ostaggio quando viene, lo sai, non se ne va più. Però vedi, ce l'ha regalato lei, l'ha spalato lei, se no si chiamavi qualcuno ha piazzato, è una seccatura. Come sai cos'è, tutto fa, l'ha piazzato lei, non sta da bagno, ma i raccordi, flessibili, la parte elettrica, tutto lì ha fatto. Giù, giù. Tutto lì, sa fare tutto, falegnameria, almeno sempre cose abbastanza, certo non, vabbè cose comunque, piccole mensole, ce le costruisce lì, tutto, cosa fa l'impianto lì, l'impianto elettrico nella casa sua se l'è fatta a norma tutto lì. È una cosa allucinante, guarda, doveva nascere maschio, le mancano solo le palle e poi è maschio del tutto. Dopo, allora tieni di la gara. Avanti già, fai girare, ciao anche a Natalino. Natalino. Quella messo mi chiama discorso. Sicuro è quella lì a crepparla a Marco. Quella mi fa scoppiare. Ah Natalino, oggi mi è arrivato l'ennesimo antennino da 14 cm, solo che questo ultimo non lo posso misurare perché ho ridato il doppio maschio SMA a Pomponio. Io li ordinati dalla Cina e non mi sono ancora arrivati, perché per collegare al Rosebank devo avere il doppio maschio SMA. No, non ti sento, ma sta ritirati. Urla. Fusaro ce li ha. No, no, Fusaro non è una minchia. Oh, quelli non ce li abbiamo noi. Oh, GBC tanto meno. Non hanno un doppio maschio SMA. Incontinenza, media globe, se li regala, se li tira dietro. È una vergogna qua sta. Li ho dovuti ordinare dalla Cina per pagare poco. Però, grazie a Dio, un pacchetto minuscolo, siccome c'è la dogana che blocca tutti i pacchi a priori, se debbano essere tassati o no, cioè ci mette 3 giorni dalla Cina all'Italia e poi dalla dogana a casa ci mette un mezzo e mezzo, anche 2. È una cosa ridicola, demenziale, solo un paese parassita come l'Italia potrebbe avere la dogana secca come le nostre, lo sai? È la peggior dogana di tutta Europa, perché cerca di guadagnarsi da ogni dovunque si possa guadagnare, ci guadagna. È la peggiore d'Europa, la più pignola, la più secca, a me. Perché le dogane sono aperte, se non le avevano? Come Gianni? Le dogane non le avevano, se non le avevano, sono la produttore, non c'è. L'Europa, se compri dall'Europa unita, però se compri dalla Cina c'è la dogana. Ricorda, fuori paesi UE la dogana c'è sempre. Mi pare fino a 20 euro non paghi nulla, o 22 euro. Poi sopra i 20 euro, i dollari, o non mi ricordo quanto è, paghi. Prima, se di poco paghi il diritto fisso, se superano tanto paghi anche l'IVA e... Comunque quello era un pacchetto minuscolo, c'erano 2 mini SMA, maschio, cosa perché loro bloccano a priori, capito? E controllano sulla cedola quanto vale il pacco, capito? Possibilmente lo aprono pure, non sia che sia oro, capito? Roba dove ci possono guadagnare. Mamma mia. Certo che così, io mi sto vestendo comunque, sono già le 7.25. Valerio, riprendi. Claudio sta preparando. Ciao Valerio, ben presentito. Di nuovo la voce dalla blocca. Come ha fatto Natalino? Natalino, prima di parlare normale, ci ha passato un bel tempo dopo l'influenza. Oh, Natalia. Ma cosa ti faceva? Anche a Nausea. Cosa mi faceva? Ma aspetta, ti parla di influenza, ti faceva anche a Nausea. Sì, vomiti, diarrea, oia. Più ne ha più ne metta. Poi mi ha mettificato anche le partite di tachicina a me, che mi ha dato un certificato, adesso meno male che mi è passato, c'è un tipo cucinando questo odore buono di minestrone, sentivo da lontano, di tanto il cavolo di la cucinetta, e io mai inteso di tachicina. Eppure io non so, l'ho sentito, c'era una ragazza che praticamente stavano dimettendo, era una brigata che non abbiamo più luci, ma dovuto fare un freddo di 3 luci. Beh, ha detto di darmi anche 3 patatine al giorno, poi c'è prende che non cambia, viene portato. E a me fa il suo accidente di avere la rimane gripante, da 500 meno male, non da lui. No, proprio al dottor detto da lui. Se voglio dire la miglia, Antalina è a muso. Ragazzi, ci sentiamo dopo e vado a portare il cane, dai, se siete qua vi raggiungo tra 20 minuti, ciao a tutti. Ciao, e così è, purtroppo è brutta questa influenza. Oh signore, buona passeggiata col cane, dai. Natali, io avevo ordinato 1.5 mesi il famoso antennino da 19 centimetri, sempre di quelli piccoli, no, non è mai arrivato dopo 1.5 mesi. E la cosa peggiore è che non posso più dare il feedback negativo, perché è scaduto il tempo. Quasi pure che arrivimi un giorno o l'altro, perché vedo che tutta la roba ordinata in quel periodo sta arrivando. È arrivato l'antennino, poi cos'era arrivato? vabbè, roba mia, segreta che non si può dire. Sei lì dove ti hai comprato il Viagra? No, dalla Cina, no, ho fatto andare in farmacia per quello io. E poi cosa me lo uso il Viagra? Per le pippe. Il calistrelle lì. Ci ha preso il calistro per le mani. Anche quello. Sì, Calippo con dottor Schulz. Quindi vabbè, per misurarlo dovrò aspettare che arrivino questi spinottini, se no non posso fare altro. Quello che ha meno stazionari lo do a te, però usalo Natali, anche la mattina quando esci, diciamo, rimettiamo in funzione il canale monitor, capito? Io quando posso accendo, Claudio farà lo stesso. E io è con chi parlo, vuol dire che lo sentirà. Non è che parlo con tutto, io ho portato il mio due. Massimo lo devo dare a Gianni, tanto non so. Se già mi ce l'ha quello. Eia. Eia, eia. Vabbè, quindi no, ma che esca la mattina, la sera, il pomeriggio, insomma, se ci sono, anche Claudio, lui bene o male ascolta quasi tutta la giornata, a parte quando esce, capito? Anch'io rimetterò il canale monitor in auge, dai, vediamo, oggi volevo uscire. Volevo farmi un giro a Plaza Mona, pigliarmi un caffè là, però c'era mia zia, vabbè io potevo uscire, non è che lì stava facendo tutto per conto suo, non è che, solo che mi blocca psicologicamente, io finché non la vedo fuori casa non esco. Io dovrei avere un SMA DLP, però in che senso? Per misurare stazionarie? No, te l'ho detto, a me se il resto ce l'ho, mi occorre un doppio maschio SMA, a meno che dalla Cina non ordini, e quella è una cosa lonfia, aspetta, e sto pensando una cosa. Potrei ovviare, forse posso anche ovviare, c'è un barilotto doppio PL, e vabbè dai, comunque, vediamo, visto che quello c'ha più watt è meglio che abbia meno stazionari l'antennino che ti do, poi se sono uguali che hanno due stazionari, l'usi con 4 watt va bene lo stesso, ripeto, io da sotto casa, con quell'antennino, da 14 cm sono arrivato a Luca del latte dolce e lui era dentro casa col gommino e gli sono arrivato bene, ti dico solo questo. Ma funziona quel PLSMA? Perché tu usi lo spessore normale, gli attacchi quello e lo attacchi all'apparecchio. Io ho anche il drogmetro che funziona per lì. Anch'io ce l'ho, però non posso collegarlo, capito? A meno che provo a guardare se mi è avanzato un doppio PL. Comunque è una vergogna, io ci avevo una lista di spinotti che mi servivano, no? E addirittura mi ha detto sia Fusaro che GBC che non è in catalogo, cioè quello che serviva a me non era in catalogo, tipo maschio SBA, maschio PL. Infatti non esiste, è una cosa lonfia che hanno solo in Cina. Ripeto, maschio SMA, maschio PL, oppure femmina SMA, maschio PL, quello a Sassari, ma credo anche in Italia non ce l'ha nessuno, solo in Cina lo fanno. Guarda che lo puoi fare, perché io ho PL femmina SMA, quindi l'attacchi allo spezzone, e quello spezzone lì lo attacchi uno al rosmetro col PL normale, e l'altro all'apparato. Non ti preoccupare come si dice quello di sentire, guarda di secco. Eia. Adesso, casomai, guarda, se non ho il doppio PL, o più maschio ovviamente, PL 259, lo prendiamo a Fusaro, quello ce l'hanno. Vai Gianni. Ciao se ti prendi un PLC che finisce con SMA per poterlo attaccare all'apparato, poi lo settore lo attacchi tranquillamente e nell'antenna ci metti il PL, oppure uno di quelli che ho io, te lo do io a vite. Adesso guardo tutti quei raccolti, bisogna cazzo tu sei dentro in casa cucato. È vero. Oh, a parte stanotte è stata una notte d'inferno, si è fatta l'alba, io non riuscivo a dormire, non lo so perché, forse perché, la verità, io prima di andare a dormire mi sono ingozzato il cioccolato da fare schifo, quei cioccolatini, quelle praline, mi sono ingozzato, e siccome il cacao, ho letto che praticamente è eccitante il cacao, probabilmente non ho dormito per quello, lo sai, ho dormito pochissimo sul far del mattino e male, mi sono svegliato 10.000 volte, mi sono girato 10.000 volte, guarda, un incubo. Ripeti Gianni. Ho detto che io mi sono alzato, avrei fatto di mattina perché non riuscivo a dormire, stanotte girai il mio video. E mi sono acceso il televisore, mi sono guardato un po' il televisore, mi sono stancato e poi mi sono svegliato a fare il sito. Veglia, ma tu stai facendo il turno mattiniero, giusto? Dipende dalla settimana. Non mi dico, oggi sei entrato al baracchino, quindi sicuramente di mattina. Comunque Natalia, lo sai, no, le modalità, ti porti lo scanner con i radioattori, poi quando arrivi in un punto bello attacchi quello lì e moduli, capito? Mai farle movimento, mai. Se trovi la pattuglia voglio vedere a sganciare gli spinotto, ti viene il panico, ti rifugi sotto la roseline e le passa e ti fai vedere lo scanner. Molte volte la sta a te per vedere i figli, certe volte io l'ho sempre usato molto. No, se ti trovi la pattuglia fai una curva, te la trovi a pochi metri con la paletta, la vedono la manovra che butti roba sotto il sedile, non fargli, lasciamo per meglio essere prudenti. Invece qualcuno lo usava proprio viaggiando, modulando, capito? Altro perché le multe sono grosse, poi certe volte c'è anche il penale di mezzo per un cacchio di radio, boh. Non mi ricordo se c'è o no il penale, e comunque anche se non c'è le multe sono belle salate, ma per carità, va bene, poi vabbè, riprendi Gianni, dai, adesso vediamo cosa mi arriva della roba virata. È una voglia che c'è penale, con la legge anticrimine se la più conosciuta. Però per queste radio esagera, cioè, alla fine c'hai il PMR vero, ma con 3 watt è la stessa cosa che usare il Bau Bau, con 3-4 watt, va bene, tutto perché, capito, perché in teoria dovrebbe essere una radio amatoriale, ma io non le cago le frequenze amatoriali, quello è il sistema. Va bene. Poi ho visto che dalla Cina esiste sempre il Baofeng V3R Plus. No, cosa sto dicendo? Lo V3R Mark II. Il Mark II che anziché una riga di display ha 2 righe di display. Quello è da prendere. Quello è veramente un apparecchio piccolo, ma è veramente ben riuscito. C'è un audio fortissimo. A me mi sembra una colonna con questo apparecchio da usare con l'attacco delle cuffie, che non è uguale, meglio la morte, l'ha attaccato le cuffie. Io l'avevo comprata della Proxel, mi pare. Allora è quella che è quadrata, da un lato ha il tasto mute, ha il tasto mute che ti attenua di non so quanti dB di suono, lo senti piano piano, e poi c'è il tasto per abbassare il tono, cioè se c'è un apparecchio che riceve con toni alti, che senti il quadrante che frigge, no, metti il tono basso è più udibile, dai, ma costa poco, 10 euro, guarda, ne valsa veramente la pena. Io sul Kenwood mettevo quella colonnina, perché il Kenwood che avevo io, l'altoparlante originale usciva un bel male, sentivo molto male, era come gracchiante, forse era, vabbè, vecchio altoparlante, giustamente. Con la colonnina era molto meglio, molto. Anche se non avesse macchina, quando è passata la pupella, non è senza la colonnina. Oh, una stanza. Cos'è che sono andato a farmi la cinquetta della macchina, e con la cinquetta perché ti ho detto io, 60 euro in meno mi hanno fatto pagare. Io sono andato con la circolazione. Ti ragioni tu, io, ho mandato a Liliano, ho mandato il fratello, ho mandato un sacco di gente. Capito? Non sapevo, da un amico che ci risparmiamo con la circolazione. Stessa circolazione, le stesse cose che fa la mia, dico, tu mi dai più caratteristiche. Perché da 340 euro in Guglielmo, meglio pagato, stesso non va. Adesso cazzo, nella serratura non mi posso cambiare i fari della macchina, che quindi l'ho cambiati per forza i fari. E lì si deve stirarli perché me l'ha detto l'elettrauto, buttaci lì, stanno anche le lenti messe male e fa poca luce. Io invece devo uccidare, tu me devi uccidare. Ma i miei sono rovinati troppo, li devo cambiare per forza. E costano 105 lui tempo dei giro sono di fare, da cui immagino di montare un balaurti, anche se no non entra, e siccome uno ha addirittura bloccato, devo vedere dove toccano, perché se no non registra. Ascolta, è andare a Ferrovie che trovare qualche paio di fari lupi, che uno di qualche macchina magari che è una tamponata, lo fa del genere, che ci danno. Sì, adesso chiedo un po'. Purtroppo cazzo mi serve la tuta ma arruinato. Mi aveva fatto la serratura nuova, tutti i rigiavi, accanto a fatto i rigiavi, i miei moglieri, e quindi ne ho due complette, una sulla porta e una smontata. Ma poi tu devi fare una ricerca per non essere più specifico, va bene, se è chiaro che ce li hanno, cazzo non vengo, ti apro la iana, non la prendi in mano, quello che è vero. Ma, vabbè, succede, una taglia così. Ti può sempre servire, poi già ho comprato anche da parte per non poter aprire col pomezzo, no, si da vuoto un pomezzo, perché prima quello che mi hanno dato potevi aprire la fuente, non c'era la mandata, capito, l'hai, e chi sta andava male. Ah, ecco, senza chiave aprivi un pomezzo, non so. Invece adesso no, ci vuole per forza la chiave, se no un cavolo ha. Io la mia, una volta sono sceso col cane prima di andare a lavorare e non mi sono dimenticato di cacciare le chiavi del tuo cazzo, mi scavava. Quando si riesce per portarci il cane per andare a lavorare, basta le chiavi, non trovo le chiavi, sono tornato indietro, ho portato il cane, niente, è andata là. Allora hai toccato a Ciaucci, adesso se c'è una macchina a dare, perché l'avevo solo chiusa così. E manco male quella che passa qui, non l'avevo mai fatto, però c'è una macchina. Gianni, sta venendo gente, dai. Chiudo il saluto e ci sentiamo alle prossime, dai. Sì, andati, ciao, ci sentiamo. Avanti, Marco. Ehi, ciao Mattarino. Ci sentiamo. Adesso speriamo stanotte di recuperare il sonno, mi già. Pensa, avevo preso qualcosa per dormire e anche la melatonina prima, alle 11 per dormire da prima. Perché bisognava fare sto lavoro dello scaldabagno, no? Io passavo il ferri, solo. Invece una notte d'inferno, guarda. Eppure è vero, dice il cioccolato, il cacao è eccitante, e dice di non più mangiarne prima, e ieri mi sono ingorciato di cioccolato da fare schifo, anche la nausea mi stava venendo. Sì, ma non mi spiegare, non esagerare, no, le cose, lasciare che basta, sei troppo. Infatti mi ero ripromesso di mangiarne pochi, al limite due dopo pranzo, dopo cena e poi. E invece ieri notte mi è venuto il raptus. Il raptus andava avanti e indietro. Le ultime specie le ho lasciate qui in camera da pranzo per mangiare i troppi, avanti e indietro. Poi sono messo oggi, mamma mia, chissà la glicemia com'è andata, mamma mia. Io devo sempre farmi le analisi comunque del sangue, quelle generiche, glicemia compresa, non si sa mai che provi qualche sorpresa. Io in questi giorni le devo fare una cosa alla massa, quello che ci piace un bel. Io prima ero così, non con cioccolato, però con la liquirizia. A me piace molto la liquirizia, se tu me le dai un pacco, fa come le mani, me le dai due pacco, mi fa anche con le mani. La liquirizia anche con le rossette, con le gabelle, non rossette soltanto. Ma io quando guidavo, lo sai come le mangiavo, un pacco al giorno. Ma rotelle di che tipo? Liquirizia? Sì, anche Goria, dava liquirizia, io sono più felice a questo uomo, mi piace un bel. Guarda, io mi ricordo la marca, quante ne abbiamo mangiate a rotelle di qui, quelle Haribo, con la... Sì, che è praticamente un filo di liquirizia arrotolato. Adesso mi piace meno, lo sai, da bambino ne abbiamo mangiate pure troppo, adesso non... La verità, non, l'ultima cosa a cui penso è la liquirizia, ma il cioccolato, mamma, una malattia è lì. E d'altronde qualche vizio devo averlo, no? I dolci piaccio. Io ho una collega che era qui, però con la mostella, ci ha saputo di notte a mangiare, ce l'ha provato a piangere, ma ripeti quale ricchino. Io non sono a quei livelli, ma quasi mi... Infatti devo stare molto attento, perché io la pagherò fra 10 o 20 anni, ricordati. Come sto pagando già il fatto di non aver avuto, di non aver voluto fare mai nessuno sport, né nuoto né niente. E adesso la schiena è curva, poi la spina dorsale è tutta una serpentina, insomma. Sono troppo fermo, sempre stato troppo fermo, anche alle medie. Sì, facevo un po' di ginnastica, ma poi di giocare a pallone non mi piaceva nemmeno, lo sai. No, non mi piaceva il fatto di giocare a pallone. E quindi cercavo un'scusa, c'ho mal di pancia, c'ho mal di questo. Il professore si adirava, sempre scusa stai trovando tu. No, io ti facevo. Giocavo a pallone, correvo, facevo. Io tuttora, se avessi il piede a posto col taglio, non sai cosa faceva il taglio. Lo portava a passeggiare, poi ricordo si girava, mi guardava, come dire, io corriamo. Io diceva, ma io e lui cominciava a correre, poi vabbè, non ce la facevo anche a seguire a correre un bel, ma non sai quanto corre. Caspita, i cani corrono, trupano, se li lasci liberi poi, non missile quando. Purtroppo già io sono nato tachicardico, non c'è niente da fare. Nonno invece era bradicardico, si faceva correndo tutto il giro della vigna, il giro dell'olivetto quando era ragazzino, e a voglia. Quindi adesso se dovessi correre è un dramma, mi fanno male anche le articolazioni se vado a correre. Cioè, non male, certo sono, ne metto sotto sforzo, non sono proprio abituato. Dici, da quando è che non corro, da? Quanti decenni? Un bel, troppo. Ma la tachicardia ci sono le cure per combatterla, e anche io sono tachicardico, ma la combatto con le medicine per nutria, perché è l'ubico, e sono medicine che rallentano il soffio del sangue. E allora, oh, buonasera, con che onore di parlare? Cinema Ariston, ti sento discretamente bene, segnale, aspetta che te lo do, vieni avanti, Santiago, diciamo 8:30, 8:15, insomma buono il segnale, dai. C'è in barra mobile oppure l'antenna in caccia? Ok, buono, buono. Magari non c'erano 5 ottavi, però. Gianni, ti volevo chiedere a te, ma cosa sono beta bloccanti? No, praticamente sì, sono delle pastiglie che ti... che rallentano il flusso sanguigno, capito? Sì, beh certo, sono beta bloccanti, sì. Quello che ti evita di stare con la tachicardia, capito? Io prima ogni cosa che facevo dovevo andare a correre un po', se c'era sempre il tachicardia, cioè, ma adesso no, adesso sono sempre tranquillo, capito? Pacifico. Ehi, ma tu almeno sai già, ti muovi tutti i giorni, lavori, anche a quello serve il lavoro, a muoversi, a sciogliere le membra, i muscoli. Guarda, io usavo, cos'è, che tachicardia, che come si chiamava quello, per rallentare le pulsazioni, quel beta bloccante mio, mannaggia, non ricordo come si chiama, solo che allo stesso tempo mi tirava giù la pressione, lo sai. Avevo la pressione tipo 130, 90, 130, 80, insomma, adesso invece è bassa, come cioè, dopo tutti questi decenni, diciamo, è cambiato la mia pressione, è prevalentemente bassa, 110, 106 certe volte, e la minima 65, intorno a quello 70, dai. È un po' bassa comunque. Beh, ma è normale che rallentando il flusso sanguigno la pressione del sangue diminuisca, è normale, è una cosa proprio elementare, sì sì, è così. Vabbè, però Marco, io sto meglio adesso, prima tachicardia quando correvo, quando mi agitavo, eccetera, eccetera, sempre tachicardia, meglio niente, dai. Ma avanti l'altro amico, non mi ricordo come si chiama. Ah, Terrano, va. Quello sbava molto, beh. Ah, in campagna, infatti in casa non fa terreno, casa parla un po'. Io invece ce l'ho sciampi, gamba gamba, però ce l'ho in casa, non in campagna. Questo è come un figlio per me, sempre vicino a me. Se mi muovo mi viene sempre appresso, ma. Ehi, comunque già, ti volevo dire, io è da anni che non prendo più il beta bloccante. Non lo prendo più perché mi tirava troppo giù la pressione. Ma ti faceva dormire, invece la tachicardia se c'era non ti fa di dormire. Ti senti curi che ti senti anche il cuore che ti batte nell'orecchio, non te l'ha mai fatto? Sì, certe volte lo senti pulsare. Mi aspetta che mi hanno mandato il codice NATO. Alfa, bravo, Charlie, Delta, Eco, Foxtrot, Golf, Hotel, India, Juliet, Kilo, Lima, Mike, eccetera, eccetera. Mi ricordo che prima era diverso, lo sai, negli anni 40. Non era questo l'alfabeto NATO. Usavano altri termini. Eccolo qua, sì. Ah, c'è anche il codice Morse. Me l'ha mandato Giulio, c'è anche il codice Morse. Capito, punti, linee. Ecco, diciamo se non l'ho mai imparato però, francamente, ma non sono nemmeno radioattore, quindi cosa mi può interessare? Ma adesso i radioattori che non sapevano fare, non fanno, ma adesso non c'è più l'esame per l'alfabeto Morse. Leia. Oh, ho visto certi con la, come si chiama, con le, il tasto, no, che non è abbattere in verticale, è in orizzontale, cioè da una parte ti fa il punto, dall'altra devi vedere la velocità, sembrano delle telescriventi, una cosa impressionante, certi hanno una velocità scrivendo e anche hanno una velocità nel capire quello che scrivono gli altri. Guarda, no, non è per te, non è per me, a me piace la fonia. Anche a me, ma comunque io l'ho visto usare da una persona non vedente, un bel forte, era di una persona non vedente, era un conflitto di parte. Ma Polino Gennargentu? Esatto, via. Eia. Ma lui non abita più a Sassari, sì, no, niente, le sai, lui era diventato radioattore, eccetera. mamma mia, io mi ricordo fine anni 80, lui stava vendendo, anche se era indeciso, mi pare fosse un Aygin Quinto, no? Io sono andato con i soldi in mano a casa sua, con i soldi in mano, non so se fosse 100.000 lire o 200, non mi ricordo. Poi alla fine non l'ha voluto vendere, poi ho scoperto che qualcuno ha offerto di più, me l'ha fregato, senza far nomi Walter. Lui arriva con la mazzetta di soldi. No, perché Walter, mi ricordo all'epoca, si stava accaparrando tutti gli LMS 200 e gli Aygin Quinto dell'epoca. Mi ricordo che gli piacevano quelli e se li stava accaparrando. Però qua è sempre a chi fotte l'altro i CB, capito? A chi frega gli affari all'altro, eh? Già lo sai, eh? Qualcuno non ne entra più. E Alessio che fine ha fatto? Che non stava, che non era molto, che era un po' giù, dai. Che fine ha fatto? Popponio parla molto in PMR, per non dire sempre, qua viene ogni tanto. Antonello, ci sei? No, ci sono io. È uguale, mi, siamo lì lì. Vai la matta che te ne vai, a te Edo. Claudio, stavo parlando prima con Natalino, siccome si sta mettendo un mini antenino in macchina, no? Non so se possiamo fidarci a usare anche ancora la monitor nostra. Io penso di sì, non c'è niente che ce lo impedisce, il problema è che, come vedete, nascono sempre polemiche, io, come ti ho già spiegato, me ne sono fatto fuori, ma penso di sì comunque. Se lo usiamo a livello della Capramusana, non di certo a livello di PMR, penso che non succeda niente. Non abbiamo avuto nessuna segnalazione, c'era questo qui qua e basta. No, infatti non è che. Noi usiamo per fare qualche passaggio, certo non siamo tra la cera come il PMR lì, no? Poi quando qualcuno si lamenterà, casomai cambiamo frequenza. Poi ricorda, tu in PMR puoi entrare, tu pagando i 12 euro usi il baracchino, puoi usare anche il PMR, dovrebbe essere modulato, usato con le solite modalità, ma come lo usiamo in LPD lo possiamo usare in PMR, sempre al nostro rischio e pericolo. Vai Gianni. Mi sa che l'LPD non si può più usare, Marco, che l'hanno data, che lo diamo a tutti di nuovo, a quanto mi subito. I radiatori sempre a statuto secondario e l'LPD lo stesso come prima, è già, anzi ti dirò di più, che da un anno o due hanno di nuovo, adesso l'articolo di legge vado a trovare, hanno di nuovo chiarito che si possono usare tutti e 69 i canali purché non si faccia interferenze con i servizi civili, tipo ripetitori di vigili urbani, ma vigili del fuoco, cioè ascolti, fai monitor, basta andare sui canali vuoti, quelli che sembrano vuoti, che sembrano vuoti perché magari ci sono piccoli segnali digitali che tu non senti, ma ci sono. Comunque per precauzione, solo per precauzione è meglio usare i primi 20 canali, e anche lì bisogna stare attenti, però non finire all'ingresso ponti radioamatoriali o all'uscita ponti, è sempre così. Non succede niente, casomai ti avvertono, guardate che siete all'ingresso ponte, ci si sposta, cioè le persone civili fanno così, capito, avvisano, scusate siete all'ingresso ponte, siete un'uscita ponte, tutto lì, ci si sposta e tutto finisce lì. Ma che avvisa ci non fa nessuno, che avvisa, non vi deve caricare i gamboni, non ce n'è di problemi lì. Il problema è solo quello che dicevo tu, di stare attenti sulle uscite e le ingressi dei ponti. Ma i vigili del fuoco e tutta l'altra zona sono tutti in coso. A 4.33 non ce n'è di problemi. L'unico problema sono le radiomatture e statuto secondario, basta. Poi tutte le frequenze pericolose sono in PMR, non in LPD. No, pericolose no. Anzi, sono nostre. come ci abbiamo assegnato il baracchino, ci abbiamo anche il PMR. Lui i 12 euro lo paghiamo per quello, non so dov'è che sono pericolose. Anche lì ci sono servizi e servizietti, però voglio vedere poi quanti di loro pagano la concessione, capito? I cosiddetti ospedali, i cantieri, voglio vedere quanti di loro pagano i 12 euro, ciascun operatore. Non ci credo manco per il cavolo. Quindi se noi vogliamo un canale in PMR nostro, che non sia il 7, ci pigliamo il 6, il 5, basta che sia apparentemente vuoto, capito? Dov'è che invece, non è... vabbè, già hai capito, dai, non è che vietate entrare lì, basta avere un canale nostro, però ne usiamo solo uno, o PMR o il DPD. Allora, vedi, di nuovo con questo discorso, non voglio parlare, Marco, ecco, pericoloso è quello che dico io, ok, pericoloso è quello che dico io, perché 4,46... 900, 875, 775, ci sono i vigili del fuoco, no? Okay. Adesso te li faccio sentire anche adesso. Ok. Fino a quando usi 10.000 watt consentite l'antenna di gomma va bene, ma quando usi 25 watt con l'antenna esterna puoi essere pericoloso. Questo è quello che sto dicendo. Chiudo il discorso, non ne parliamo più. Riprendi già. Io chiaramente non sono io, non mi capisco, da una mi piace questo, di tre questo, di tre questo, tanto se stai a cambiare, a fare, si disperde tutto qua. E vabbè, a Marco è appunto Giulio, io non ragiono come lui, capito? Io la licenza della patente non me la gioco per andare a disturbare. Io radio omologate, adesso te lo scrivo, io radio omologate per parlare in PMR non ne ho. Gli altri ce l'hanno, non ce l'hanno, non sono cacche che a me mi riguardano, io non mi associo a nessuno. Ok, posso entrare, anche stamattina sono entrato e salutato una persona, eccetera, eccetera, e poi me ne sono andato, basta, ma io così o così non le faccio perché non posso farlo. Ok Marco, mentre in secondaria posso fare quello che mi pare e mi piace, va bene? Quella è un'altra cosa, lì no, lì devi essere come lo statuto ti dice, come le regole ti impongono, come c'è scritto nella concessione, ok? Io però non sono in grado di poter fare quelle cose, quindi non me la gioco le 100 la patente, preferisco stare qua in 27, le mie 12 euro sono pagate, saranno pagate anche per il PMR, ma io non ne ho PMR omologato, quindi non posso giocare come giocano gli altri che non hanno niente da perdere. Stando attenti però, è sottinteso che non hanno niente da fare. Vabbè Claudio, ma non hai neanche le PD omologati. Non confonderanno con la setta, tu devi avere l'omologato nelle PD. Io sono radioamatore, a statuto secondario, uso la potenza che mi è stata consentita dalla legge. Ok, se parlo con un radioamatore, se parlo con te la legge è uguale per tutti. Ok, però lì posso giostrare, perché ho il veicolare piccolino, quello della macchina, lo metto a 5 watt, anche se sono 5 watt, ciccia, ma lì no, io non ho altre radio che possano fare quel discorso lì, capito? Sì, va bene, va bene, va bene. Vabbè, già va bene quello come monitor, però chi ti dice che noi usando 5 watt in LPD non produciamo spurie armoniche che risolvano comunque a 446-900? Non lo puoi sapere quello. Poi ricorda, in PMR 500 mW, in LPD sono 10 mW. Va bene. Vabbè, meglio non parlarne. Finché non ci dicono niente, noi proseguiamo la nostra strada. Vai Gianni. Bravo, infatti, siccome non ci hanno mai rotto le scatole, perché già ci sono io, avete gabbata sotto controllo la situazione, continuiamo a fare quello che facevamo prima, con molta tranquillità e educazione. Non perché dall'altra parte, per carità, si erano maleducati anche. Sono persone molto, molto educate. Però io lì non me la sento di prendere un canale, di stare lì, poi abbandoniamo qua, no. Continuiamo a stare in 27, per quelli che siamo già va bene così, teniamo monitor quella che avevamo e si rabbiglia in gomma le vostre mani. Un attalino è andato sempre. Ehi, è arrivata gente e ha chiuso. Cazzo, ma lì è una mecca, tutte le sere c'è gente lì. No, noi qua non vogliamo nessuno. Anzi, quando ci abbiamo visite mi viene l'ansia. Qua ci rifiutano di venire. Anche per un Ehi, non lo vedi, io non sono per le visite, per riceverne di visita, no? Mi rompo le palle, boh, preferisco, se devo incontrare gente, incontrarla fuori in un bar. No, via. Va bene, va bene, va bene. Quindi sì, mi è arrivato l'ennesimo antenino da 14 cm, sai, un antenino voleva piccolo, discreto, perché boh, io uso anche quello da 1,5 m, te l'ho detto, c'è lo scanner attaccato, quando serve ti fermi, attacchi lo spinottino, attacchi l'altro. Lui lo vuole usare in movimento, dice, ma se vedi un controllo, posto di blocco, lo stacchi e lo metti sotto il sedile, e siccome non ti vedo non mi faccio la manovra. Cioè giri un angolo, una curva, ti vedi la paletta e cosa fai? Sta, mentre guidi sa che lo spinotto, non fa, non fa, è troppo pericoloso. Eia, sono entrate due persone, ciao Gianfranco, adesso ci tira le orecchie sicuramente, ciao Franco, eia, in compagnia di Claudio e di Gianni Ropiurutto, vai Gianni per Gianfranco e per Franco, Gianfranco e Franco. Ehi, buonasera a tutti e due, dai. Doppio rondo a questa parte. Non so, per non lavorare. Questo qui non è Franco. Ciao, ci vedi. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Non tu. E poi con la cuore all'aperto, che è un po' freddo, c'è la... Sì, sì, fatto, la tarura, fatto, lo stato. Io so che faccio... Ciao Massimiliano, cordialità e saluti, ben ascoltato e buon trabacco. Mi sembra aver sentito Gianfranco, Franco, lo socio. Allora il primo era Gianfranco, vai Gianfranco, buonasera. Non fa vedere, l'LPD è per me che sto chiudendo, parla di qualsiasi altra cosa, anche della scimmia di Tarta. No, vi dovete passare a tutti, tutto. Alla, tantissimo ascolto, come sempre. No, infatti ti stavo dire, ma sempre la stessa cosa parlate, non siete un po' monotoni? Ehi, vabbè, mi manca ogni tanto, c'è cioè, sempre queste cose, ma a me poco mi interessa. L'ho sempre detto, sono tanti argomenti, lasciamo perdere, bande amatoriali, frequenze, no, tanto a me, guarda, mi entra in orecchio, Marco mi esce nell'altro. Io sono CB, pagata la concessione CB, sono CB e CB rimango. La parte amatoriale per me è nella carta, perché mi serve purtroppo, altrimenti sarebbe già sparita. Avanti Franco di Sorso. Ehi, allora, buonasera anche a te, dai. Oggi non abbiamo lo turno. Massimiliano era un buon lavoro. La notte è brutta, io ne ho fatto tanti, non tutti. E dove li hai fatti? Al cinema? Li ho fatti, tu frega se vedo. Ah, quando era acciso? E uscivo con me anche di notte. Quello se non mi ricordavo, perché già dove al cinema l'hai fatto già. Ma già, è diverso quando si un turno come Franco, e come ho fatto io, ne ho fatto quasi 4 anni di turni all'impianto di Perfuas. L'impianto di Perfuas, credetemi, è peggio una galera perché è in mezzo alla campagna, disperso. Immaginati che tutte le notti scendevano i carabinieri avessimo bisogno di qualcosa, a rasura, capito? Un potabilizzatore che appunto potabilizzatore di Perfuas, Erula, tutta quella cosa, capito? Quindi lasciati lì. Ma guarda, a volte mi veniva la voglia di chiudere e andarmene, però purtroppo il turno l'avevo fatto. Brutto, brutto. Mi portavo, non era il mio, c'era il cane del mio collega che lo portava la mattina, quando c'ero io me lo lasciava a me e poi lo scendevo io. Capito? Guarda, mamma mia, mentre Franco, vabbè, in compagnia è una diversa cosa, ma i turni che ho fatto io, che sono riuscito, ma con fatica in corsi, la verità, a farmi togliere i turni e passare giornaliero. Ma sto parlando nel lontano 1998, una cosa allucinante, credetemi allucinante, ogni rumore che sentivo mi salivano i capelli dritti, guarda, i capelli dritti, tutto illuminato, però non si vedeva la campagna, quindi se qualcuno voleva farti il male entrava la campagna, era tutta la bugia, allora la notte notte scendevano i carabinieri col faro, illuminavano tutta la campagna, controllavano. Mamma mia che cosa vera. Riprendi, a chi spetta? Gianfranco, per salutare a Franco, vai. Sì, buonasera Franco, va ascoltato. Sì, una notte è brutta, no? Qualunque cosa si faccia, se si guidi o se si sia in giro, comunque per altri motivi è sempre... non è tanto bella. Abbiamo fatto quella cosa da giovane, adesso un po' è più tranquilla la cosa, soprattutto. Riprendi Marco, adesso lo chiamiamo Marco con i fuochi, perché prende sempre i discorsi per fare un po' di fiamme. No, perché avevo detto a Claudio se volevamo farcelo anche in piede, era un canale monitor, proprio per due passaggi, ma ha detto che preferisce là. Massimiliano mi ha detto che ha detto una cazzata, non so perché. Ho detto che sono 10 mW LLPD, 500 mW in PMR. Non lo so qual è la cazzata. Non so a cosa era riferito, al band plan, non lo so. Non lo so, non l'ho manco sentita perché mi sono allontanato e mi stavo cambiando di nuovo, mettendomi il pigiamino. Capito? Quindi non lo so. Però la legge è quella, non ce ne sono cazzate. Le leggi sono quelle e vanno rispettate. Chi non le rispetta si assume la propria responsabilità. E chiudo il discorso, non me ne ha fatti un danno a me. Cosa stavo dicendo? Ah Gianni, sì, ma guarda che poi io li ho fatti anche fra, li ho fatti quando facevamo le fermate giù a Leniken, era una passeggiata, era un fiotto di bassoni, tutti ridendo, scherzando, passavamo la notte, arrivava il giorno, manco te ne accorgevi, capito? Ma lì credetemi, ma credetemi davvero, mamma mia quant'era brutto, ero arrivato in capo al mondo, anche perché ero appena arrivato io, capito, da Cagliari, che lavoravo la Saras, il depuratore della Saras, ed ero appena arrivato lì, quindi non è potuto accadere la sera a volte, però tramite conoscenza eccetera ero riuscito a farmi togliere, allora c'era l'ESA, ero riuscito a farmi togliere dai turni e fare il giornaliero, fortunatamente, anche ero disimpirato, non chiudevo occhio, sempre occhi aperti, con questa pia, andando e torrendo, rugani sempre fatto, mamma mia, lasciate perdere. Meglio nulla, riprendi Franco. Con la pressione al volo a marzo è uscendo, perché non c'è più chiusa per fare le ricerche. Ciao, saluto anche io, dai, sono la famiglia in casa, ciao a tutti, buona serata, buona continuazione per questo. Su questo non c'è piove, ma c'è lì, è quello che Marco non ci vuole entrare in testa. Io non me la sento, poi chi se la sente lo faccia al suo rischio e pericolo, come si dice. Io non me la sento di fare quelle cose lì, ok? Ciao Gianni, anche a te, buona serata, buon tutto. Avanti Gianfra, riprendi tu. Sì, buona serata, alle prossime, va bene. Anche se devo restare, non ho fatto problema. No, francamente nemmeno io. Parola saggia, Marco Bra, parola saggia, ma poi è così, vabbè, ma la gente è appassionata di queste cose, ma Massimiliano ti ha detto che quello che hai detto tu è una cazzata, nel senso che nessuno rispetta quello che hai detto, 10 mW e 500 mW, è lì il problema, capito? O perlomeno, almeno evitare le antenne esterne, le potenze alte. Tu se hai una radio un po' più seria rispetto a quella che la legge ti consente, si rabbiglia le luci, ma si sentono troppe cose, capito? Troppe cose. E quanti volte ti usiamo? Stamattina ho sentito una cosa, c'era anche Franco, si è andato proprio alla grande, fratti, devo fare i complimenti. Ne ho sentito uno, no, io sto usando il veicolare adesso, no, portatile, non si dicono queste cose, è sempre un rischio e un pericolo, bisogna stare zitti e fare sempre i furbi. Io ho giocato 30 anni di pirata e Gianfranco lo sa, no, perché abbiamo preso la patente quasi tutti assieme. Quindi 30 anni di birata, Giovatti, 30 anni di birata, non ho mai avuto niente che mi, nessuno mi poteva dire niente, perché già, oh, guardate lì, un giocattolino, antenna, che antenna, no, antenna, le antenne erano sempre nascoste, sempre basse e basse, non si vedevano mai dalla strada, niente, capito? Tutta roba sempre organizzata, invece continuo a sentire cose che non bisogna dire, tutto qua. Già hai sentito stamattina, si è andato di lusso alla grande, infatti io ero in silenzio e ascoltavo, cose che bisogna fare i furbi, purtroppo senza offesa per nessuno, ma non siete furbi, non siete furbi, non siete furbi, capite? Non siete furbi, e vabbè, pazienza, ognuno fa quello che le piace, a me poco mi interessa. Avanti Giaffra, e quando è che passi a fare con Ramiro con Stefano stamattina? Mi ha detto appunto alcune cosette, già lo sai, con l'altro avario che ha preso, e niente, io mi ho mandato la foto Marco di quello che c'ho io di MR a Antonello per farglielo vedere, tutto bello illuminato con la tastiera e il display tutto bello illuminato. Avanti Gianfra, riprendi, quando è che passi? Ma che siamo vicino a una cosa, io se uno esce con un veicolare con 20 watt anche se non lo dice veicolare, dice che è un omologato, non è che sia molto più furbo. Perché gli organi di controllo se ne accorgono che potenza sta usando, a dire tutta. Come qualcuno che controlla la produttore, sì, sono con l'omologato, con l'antenina dentro casa, arrivavo quando scala a Sassari, fammi dolci. Ho capito, ma buon intenditore, poche parole, tagliati. Se ti scopro la pazienza, ma così fai ancora prima per farti scoprire, quindi gagliati, non interessa a nessuno quello che stai usando, capite? Io dal 1983 che usavo il 430 e 27 e continuo a usare il 430, il 440 e 27, dal 1993, a me non mi ha mai rotto le balle nessuno, eppure non lo posso usare, lo devo usare sulle banda amatoriale. Assumo io le mie responsabilità, non è che posso dire sto usando un baracchino omologato con questa radio e con questa potenza. È dal 1983, ok? Anzi, bugia, 87, che io uso questa radio 27. Non rompo le scatole, nessuno mi ha mai detto niente e continuo ad usarla. Dal momento in cui mi dicono tu da oggi devi usare il baracchino omologato, vuol dire che ho il baracchino omologato. Però mi assumo io le mie responsabilità, anche per la detenzione, perché li posso detenere. Molti invece dicono che lo ce l'hanno, non possono manco detenere. Marco, chiudiamo i discorsi, ci sono mille cose che bisogna far funzionare la testa, non i piedi. Vai Fra, che devi andare a lavorare tu. E cosa va? E me ne posso vantare, me ne posso vantare. Io, ma lo dico ad alta voce, e Gianfranco lo sa. Ok, io mi sono preso da lontano 1993 la licenza da radioamatore per la detenzione delle radio, non per l'uso, a me di usarle non me ne fregava niente. Tanto è vero, io per 20 anni non ho mai avuto antenne sul tetto, avevo un misero dipolo multibanda che mi consentiva di fare due chiacchiere a livello locale, a livello europeo, ok, e boh, ma soprattutto più a livello locale, e boh, capito? Proprio perché non mi è mai fregato niente. Io me l'ho presa per la detenzione, perché purtroppo ho sempre usato questo tipo di radio, ho sempre avuto di tutto e di più, e quindi mi sono messo in regola per non avere problemi, ma non per l'uso. Cosa me ne frega a me dell'uso delle radio amatoriali? Non manco pensandoci. Però mi piace averle, perché giustamente devi averle, ma non mi interessa usarle, quindi, caro Franco, così è, e così è. Così è, così è. Guarda, ero accorto a non rinnova nulla, figurati, che altro mi affutti. Avanti Gianfra. Doppio SMA dalla Cina e Fusaro non sa neanche che esistono, di vicino ne parliamo. Se li vai a comprare qui dall'Italia ti fanno pagare 10 euro il corriere, dai 5 ai 10 euro il corriere per due spermatini doppio maschio SMA, e li ho dovuti prendere a 409, almeno è gratis la spedizione, arriva dopo due mesi, però è gratis la spedizione. Stesso. Sì, sì, ho già messo sopra la monobanda VHF, non veramente ho già messo l'11-20 VHF, capito? L'ho già messo a nord, così, niente, me lo portava Antonello, sono passato stamattina, scusalo, però non c'è sceso il fratello di Vittorio da Cagliari, che gli deve portare lui, appena glielo porta passo, lo prendo, le collego la direttiva UHF. E già fai, cosa faccio? La verticale ce l'ho collegata sulla 910H, con duplex e due numeri, la faccio, stacco quella per parlare, no, le metto l'antenna così, non c'è neanche problema, lascio l'antenna diretta UHF, capito? La proiezione verticale e servizio di luce. Buona serata, Franco, avanti. Sì, buona serata, Franco, fate mia. il 30 di marzo. Va bene, sono contento che sia entrato Eugenio, dai. Comunque sono senza parole, dai, sto cominciando a esaurire gli argomenti. Che poi sono sempre quelli, mi sono detto, come facciamo a fare? Io me lo immaginato, c'avevo il volume basso, dai. Sentiamo le prosce, ciao le prosce, buon lavoro, buon tutto. Marco, stavo cercando Antonello oggi, mi pare, non so, ha fischiato qua, poi quello bipi, io non rispondo a nessuno, lo chiamano per nome, come faccio io, c'è Cucara alle 10, c'è qualcuno in ascolto, anch'io non mi chiamo né Fruscio né Bip, oggi vuol dire che non sono presente, se no io ti rispondo sempre, però c'è gente che schiaccia il microfono col bip e ti fa sentire il bip, capito? Io non mi chiamo Bip, Fruscio, se loro chiamano io conosco la voce e rispondo, se no io non rispondo a nessuno. E oggi sono state un bel po' di gente col bip, portante, bip e Fruscio, io non rispondo a nessuno. Che si presentino quando entrano, allora io sono qua e rispondo a tutti. Vai Gianfra. Sì, che bip sono un po' fastidiosi. Io mi sto facendo, sto cercando di fare una meta locale perché mi sono dimenticato dove ho collegato l'antenna, c'è un casino, veramente, non so subito. E niente, vabbè, mi sono ricogliolendo, comunque, riprendi, c'è rimasto, Marco, riprendi. Io chiudo e me ne vado, dai. A guardarmi un po' di, come si chiama, striscia notizia, quelle cose là, dai. Ci sentiamo domani, salvo, come dico sempre, in invasioni barbariche, parenti, eccetera. Oggi sono entrato anche tardi, verso le 7, perché, vabbè, sono anche uscito. Prima eravamo in ostaggio della solita mia zia, che fa tutto lei, sa fare tutto lei. Che è vero, gliel'ho spiegato prima, no, però te lo fa pesare, capito, che fa tutto lui, lei, eccetera. Va bene, alza la voce solo perché hai soldi, capito, se no ce l'avremmo mandata a quel paese già da quel dì. Ok, ciao Claudio, già ne ho pure andato via, ciao Claudio, Franco. Franco Gianfranco, Eugenio che tanto non mi sente, a tutti dai, anche da ascoltoni, ciao a tutti, buonanotte. Ciao Eugenio, ciao, alle prossime, ciao Marco, ci sentiamo, io aspetto che mi chiamino e poi chiudo anch'io e ci andiamo a cena. Vai Gianfranco. Sì, ciao Eugenio, buona serata. Di morale, ma vabbè, sto pensando a fare due o tre buchi e cambiare una cosa, ma ne voglio uscire fuori che c'è una temperatura bassina. No Gianfra, non pensare, perché io sono andato a portare il cane e sono rientrato ed ero anche accaldato. Rispetto agli altri giorni, perlomeno alle 7:30 c'era temperatura abbastanza buona. Dimmi oggi, cambiata? Abbami, sempre con parenti, io non ti compareggi, una cosa seria, va a casa che. Ciao, guarda che ne uno sotto mano, bellissimo. Chiamami e fatti vedere, ciao. Riprendi, Marco, vuoi riprendere con Gianfranco? Te ne stai proprio andando? No, proprio chiuso, è in coma profondo. Quando c'è la zia, lui non riposa dopo pranzo, allora alle 8 vai a catalessi. Non possiamo neanche dire che fa cena, perché cena alle 2 del mattino, credo. No, oggi ce l'ha fatto presto, ci ha mangiato presto, quindi ce n'era a mezzanotte. Mamma mia, come fa a dormire, che, per carità. Io tutte le notti, tutte le sere, non più tardi alle 9, perché sennò non digerisco un accidente. Poi stanotte c'è anche roba abbastanza buona, quindi va bene. Sì, già. Pianfra, ho capito, ma è quella, cosa vuol fare, una richiesta, cosa vuol fare, vuol farci vedere a te, però? Controllo, buon rendere. Sì, ciao, grazie a te. Buona cena.